Io la guardo con gli occhi, credo, della maggioranza dei cittadini, che non ne sanno nulla, se ne leggono qualcosa sui giornali non la capiscono, quelli che la capiscono si chiedono perché si stanno confrontando solo di nomi e nessuna linea politica, nessun progetto uno contro l'altro o uno a confronto con l'altro. Io la vedo allo stato delle cose una questione purtroppo solo personalistica di candidature, cosa che non vogliamo fare gli ingenui e dire serve prima i primi programmi. È chiaro che i programmi, siamo consapevoli che vanno sostenuti dalle teste e dalle gambe delle persone, però qui di programmi non se ne parla assolutamente, di progetti non se ne parla assolutamente, che in un momento così drammatico per la città, e parlo per quanto riguarda almeno il nostro mondo, che riteniamo essere il più colpito da queste vicende legate al Covid e alle fasi di restrizione dovute al Covid, per noi è una situazione disastrosa. Quindi io mi aspetterei da una forza politica che ha governato, che propone di governare, che abbia da proporre delle cose diverse, da non mettere insieme soltanto una contrapposizione, che poi il fatto che sia una consultazione interna oppure che diventi dopo un confronto pubblico, primario, eccetera. Ma perché uno dovrebbe scegliere una persona piuttosto che l'altra senza che dietro ci sia un'idea di città diversa? E secondo lei, rispetto a questo, quali sono allora i temi e le priorità che bisognerebbe considerare in un programma politico elettorale in questo momento? Parlo per la parte che riguarda l'AICS, che riguarda il mondo associativo, il terzo settore. La crisi che c'è è la crisi peggiore che ci sia mai stata. La contraddizione è questa: c'è una crisi terribile e c'è un entusiasmo, una voglia, un desiderio, una capacità di reazione enorme. Il punto è che questo secondo lockdown il primo aveva già tagliato una rete di associazioni, una serie di associazioni che non ce l'hanno fatta. Il secondo taglierà una grandissima parte di associazioni che avevano ripreso e che si erano attrezzate, avevano tirato la cinghia per resistere. Questo è il punto. Questa seconda volta rischia di essere un massacro per tutte le associazioni che non hanno ricevuto nessun tipo di aiuto, oppure degli aiuti irrisori. Ma se pensiamo solo al discorso degli affitti, arrivano delle agevolazioni sui crediti imposta anche da parte dei provvedimenti governativi, dove abbiamo le banche che non danno il credito d'imposta, i proprietari talvolta ragionano e accettano e talvolta invece dicono no, a me non me ne frega niente. Incomincia a esserci una situazione di forte attrito nella quale le associazioni avrebbero bisogno di una voce che gli dicesse va bene, il comune di Bologna si orienta in questo modo, fate uno sforzo anche voi privati per venire incontro a queste necessità, perché il tessuto associativo è un tessuto che fa comodo a tutti e fa comodo anche ai proprietari degli appartamenti o dei locali o degli immobili. Se il comune di Bologna è il primo a dire no, comunque si paga, vi dilaziono ma comunque si paga, cominciamo a essere deboli, perché poi come spiegheremo alle associazioni che devono dire ai privati no, io non sono in grado di pagare, rimango dentro? È una situazione difficile da questo punto di vista, ma questo per citarne una. Il nostro ambiente è un ambiente nel quale la contrattualizzazione delle collaborazioni è minima, sia sulle associazioni sportive, quasi niente, sia sulle associazioni di tipo culturale o di spettacolo. In realtà c'è una rete di volontari che riescono a mettere insieme più un lavoro fatto da pezzi di lavoro che non hanno nessun tipo di riconoscimento, quindi sono fuori da qualsiasi provvidenza, fuori dalle casse integrazioni, fuori dal discorso per il quale sono state comunque tenute in considerazione le necessità delle partite IVA. Questo settore qua è fermo. Noi avevamo calcolato che solo nel primo mese di chiusura, quindi diciamo metà marzo, metà aprile, le associazioni AICS avevano dovuto rinunciare a una media di 70-80 date di spettacoli. Parliamo solo di allora, poi ci sono stati altri tre mesi, poi c'è stata un'estate nella quale si è incominciata a rialzare un po' la testa, a provare a fare qualcosa con tutte le limitazioni, il distanziamento, i numeri chiusi, ma le mascherine, il divieto di ballo, per carità, tutte le dichiarazioni, però tutti avevano provato di far funzionare. Faccio l'esempio del Link, che ha avuto una vita difficile da quando è stato portato in via Fantoni oltre il Cap, e che però in questa situazione è riuscita a sfruttare per fare cose piccole almeno l'area esterna. Si potevano fare solo cose fuori, quindi loro l'hanno fatte fuori e in realtà hanno fatto le serate da 50, 60, 70 persone. Il punto è di riuscire ad arrivare a comprendere questa situazione, e questo va fatto da tutti i punti di vista. Pensiamo a tutta la rete di case di quartiere, ex centri sociali che sono chiusi, nei quali facevano attività associazioni culturali, promozione sociale, tutto il socio educativo legato a questo è stato contenuto moltissimo. Sono tutte attività che sono rimaste ferme. Questo mondo è un mondo che chiede aiuto. Di questo quando ne parliamo?